DJ Testa de Cane. Che dici, come va? Entra, entra nel mio studio che è bellissimo, entra, entra. Ah, caro DJ Meno, è un piacere incontrarti. Sono venuto qui per dirti che la prossima trasmissione dovrà essere una trasmissione in cui diciamo che la mafia fa schifo. Minchia, la mafia fa schifo. Minchia, ma Matteo, non potremmo cambiare qualcosa? Allora tu tranquillo, apri la trasmissione, ricenno, benvenuto a tutti e a tutti. Sì, benvenuto a tutti e a tutti, è bello e brutto, è lunga e corta. Così ne tocchiamo pensare. E ci dici, questa trasmissione, questa nuova trasmissione la vogliamo fare contro la mafia. Dobbiamo dire tutto quanto che la mafia fa schifo, che la mafia è una merda. Ma ti fissasti? Ma non possiamo usare qualcosa di generico, qualcosa innesaccia, la mafia è bruttina, no? Non è simpatica, però non so, qualcosa, cioè, me scanto, cane, me scanto, ah, chi sta, che ci diciamo, chi? Casomai, allora, invece di dirlo alla fine, lo dici di dirlo all'inizio, lo dici alla fine, eh? Dice alla fine, chiudendo la trasmissione, dice tutti i contributi sono arrivati contenti. Yes, forse hai ragione, cioè, diciamo alla fine, si scorda. Magari si nero tutta a casa. E dici la mafia fa schifo, la mafia è una merda, lo devi dire. Senti, cara, io non posso, non posso. Comunque, ora lasciamo la voce a Rosa Balestreri che parla di mafia e parrini, mafia e preti. La mafia e i parrini si dettero la mano, povero cittadino, povero cittadino, povero paesano, e mafia e parrini si dettero la mano, e mafia e parrini si dettero la mano. Mi devi dare tutti i soldi. No, per favore, i soldi no. Allora, le do una sedia. No, allora, allora io sparerò sei tuoi figli che a te, ma mi sposo con tua moglie. No, no, no, no, facciamo così. Mi lasci il baciabel e spara solo a mia moglie. No. La prego, la sparo prego. Sparo i tuoi figli, pam pam. No, i miei figli, a mia moglie, perché non la spara? Guarda, è là. No, pam. Ah. Non è giusto, lo Stato mi ha lasciato sola. Me, Buongiorno. Mi manda al cardinale al sucando. Dice, io devo parlare con loro. Sucando. Cardinale, sì. Devo parlare con loro. Direttamente deve parlare con loro. Sucando. E chi è questo cardinale? Il cardinale deve parlare con loro. Non posso parlare noi, di loro deve parlare il cardinale. Evidentemente. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. E ditemi, che cosa c'è di così avventuroso per recarsi in piena notte nel lancio delle 845 di una 485 360 che tutti chiamano impropriamente strega? For the sake of curiosity, my friend, I mean, isn't it your insatiable hunger for knowledge that urges you to scan the skies with your telescope and search for stars? I mean, what else could it be? Mio caro Conte, 365, 365, 885, 750, 455, intellettuale e spirituale possano 850. Ecco, ti scomoda! Niente. O 450, niente, dobbiamo parlare loro. Vita mi sta dentro e lo poi che lì è chissà e cadenza un anno sciuto ma chissà un amaro a Genetto chissà a scimmia e Tyson se dottore ma se mi sta toccando nel personale chissà me mace Tomato a scimmia e Tyson ma che sembriaco Genetto so frate mi resta dobbiamo fare una ronna addolorata con la faccia sofferente nuovo realismo dice o ne vorrei lei smogene esatto ma mangia se dottor avevo anni che gittata non funeriato con si può muovere mensolato suo frate mi disse copia c'ha la faccia a Tomace e ci mette camaro. Ora un solo che uno fa le cose come ricetta voace ma se va giù te promocco una mare perciò mi mangia ci metà e se ne pare su dottor Gene dice pa la mosca topa. Camisimo ho lato all'altare e a chiesa è vacante un vene più nudo cacchietto dottor cammino lo camorrea oh fratello signore, buongiorno. detto che siamo di fronte al sacro monte. Se Santa Rosalia ti chiedesse di gridare no alla mafia. Mi spiace per Santa Rosalia, perché Santa Rosalia fa miracoli, fa tante cose, però non lo posso fare. Nemmeno se Santa Rosalia. No, mi dispiace per Santa Rosalia. Mi spiace perché io credo a Gesù, che sono credente, però non lo posso fare. Senti, allora diciamo un'altra cosa. Se te lo chiedesse Gesù in persona. Mi spiace per Gesù, perché Gesù fa tanto per noi, c'è la salute, però non lo posso fare. Niente? Niente. Nemmeno se lui ti dice grida no alla mafia. No, non lo posso fare. Senti, saliamo più in alto. Se te lo chiede il Padre Eterno, Dio in persona, grida no alla mafia. Piace, non lo posso fare. Ma dici sul serio? Sì, sì. Niente? Niente. Ma perché? Perché non lo posso fare. Ma perché? Perché c'ho i miei motivi. Uno, qual è? Perché non lo posso fare. Grazie lo stesso. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera. Buonasera, siamo qua per l'allenatore Falcone Borsellino. Per far sapere al pubblico che lo sento. Per far sapere il bene che hanno fatto a Palermo Falcone e Borsellino. Beh, facendo scuole. Facendo scuole, illuminazione. E giardini. E giardini. Combattendo anche la mafia. Chi si è fissato qui, chi sta già a combattendo, combattendo anche la mafia, come eroi. Come eroi. Buon divertimento a tutti gli come abitanti eroi dello Zenna. Auguri, figlia maschio. Oh. Oh. Capisci? Siamo a posto. A presto, per questa cosa. Se le mani, abbassano un po' se le mani. No, questa cosa c'è, che fai con gli anni? Ma perché non la lavavo, che mi incassi, capito? Ripetate le parte. Questo è in onore di Falcone Borsellino e ne siamo lieti di essere qui stasera allo Zen. it was, if it did not last, then where could it have been? It must have been somewhere. It has passed, so where is it now? It must be somewhere. Where did it come from? Where did it go? Scordata. No, è proprio il manico della chitarra che porta questi scherzi, perché la chitarra c'ha di più di 50 anni e ha preso un po' di umidità. Io l'ho portato per questo. Scusi, lei dedica la canzone a Falcone e Borsellino? No, con la chitarra suonata no. Con la chitarra scordata? Perché se fosse scordata io non potrei cantare. Ma è scordata. Esiste, è un lavoro di squadra. Sono tante professioni. Esiste, la mafia è un'invenzione della stampa, è un'invenzione. Vuoi parlarci tu con questa scarsa minchia? Noi ce l'abbiamo. Allora, fammi finire, poi dopo si può parlare un passo. Cosa dici tu? Se sposa Don Vito Picciotto con Gencità, o non lo so, se ha pippato qualcosa. Scusa, zio Silvio. E certo, adesso ti manca un voto, la devo venire io. Zio Silvio, bada, zio Silvio, è colpa tua, va bene? Ora te lo voglio dire, perché fai fare tutta la Lega e che chiaramente preferiscono la Camorra. Io lo capivo, perché la Munnizza fa la Camorra, lo nucleare fa la Camorra, e l'alta velocità la fa la Camorra, e la televisione la fa la Camorra, e quindi Saviano, che tempo di minchia, viene via un tuo culo. La mafia ormai è un documentario, è diventato. Gianni Menoli devo aspettare perché si parla di Nuauci. Ma al di là del danno economico, Silvio, che i soldi vengono, non è quello il problema. È un danno d'immagine. Non ci bastava la scissione di Mafia e Libertà. Silvio, stare con te è un danno d'immagine, mi dispiace dirtelo. Solo proclami fai. Fai proclami e poi non fai una minchia. Io qua non lo posso fare. Se io qua dicessi, metto la bomba, domani metto la bomba, dovete, e non la metto mai. I vecciotti mi incaprettano, mi buttano in una fontana con un peso ai piedi e esprimono un desiderio con la fidanzata. Hai capito la differenza con Nuauci? Su Silvio, allora vuoi che te lo dica con tutto il rispetto? Su Silvio, sei finito. Vedi che sei finito, scusa se te lo dico. Non conti più una minchia bucata di una minchia. Oh! Adesso vuoi fare la trattativa? È tardi, Silvio, ti devo salutare, non vengo a Roma. I'm gonna go get some more. pensava sempre, meglio crepare che tradire. Tuo padre era un mafioso. E allora? C'è qualche cosa da dire con la mafia? La mafia è bene, la mafia è giusta. Smettila, Natale. Leonardo, Torto e Delia. Hai sentito quello che ha letto Antonio? Allora, secondo te, la Sicilia è una terra ricca di fiumi? Sì, è ricca. Superiore. Se vi capita di incontrare un mafioso di strada, il dilemma è questo. Un mafioso con il pedigree non si porrà in questo modo, modi gentili fino a un certo punto però. L'esempio serve a capire, come se fosse spiegato a un bambino, cos'è la mafia. È qualcosa che se la incontri non puoi rimanere indifferente. Se ti avvicini devi sottometterti. Se la respingi paghi ugualmente le conseguenze. Se in una borgata il ragazzino che sta per diventare un adulto tossicodipendente incontra il capo della piazza, si potrebbe sentir dire: ti scippo a tiesta, pigliu cariccio palluni. Comunque non temete, la mafia, molto saggia e astuta, si nasconde ed evita che la maggior parte dei siciliani possa riconoscerla in faccia. Quindi campate tranquilli. Certo, non può fare a meno che il suo volto più sgangherato venga esposto in una piazza di spiaccio di Palermo, o magari che riaffiori nel volto di un soprastante di campagna. Ma a parte questi inconvenienti imbarazzanti, quando può non si fa proprio vedere, per non far capire più che le opzioni di chi la incontra sono sempre quelle. Chi ci tà lì? Chi fa un talì, mi schifì? Ora, quello che io dico è: cosa cazzo ce ne facciamo della mafia in Italia? Cioè, a cosa serve la mafia? Se davvero non serve a niente, se non agli interessi di essa stessa, com'è possibile che non ci liberiamo della mafia? Davvero, possiamo credere alla favoletta che, siccome si riuniscono segretamente e fanno i latitanti nella stalla, non possiamo trovarli? Davvero, è un'associazione a cui aderiscono in modo ideale ancor prima che per guadagno? Ne dubiterei per molti, non mi stupirei per altri. Eppure, se non sai fare molto e vivi in una grande città, qualche piccola opportunità il capo della famiglia del tuo quartiere può sempre trovartela: lo spazzino, il magazziniere, se sei bravo anche il posto in banca. Se sei figlio di un mafioso, anche se sei un pirla, te la trovano lo stesso. Poi magari sei troppo coglione e ti ammazzano. La mafia è una grande recita di uomini aggrippati, pesci che fuori dalla loro acqua sarebbero disadattati con problemi relazionali. Nel loro ambiente invece sono tutto vino e salsiccia. Pezzi di merda sono soprattutto quelli più raffinati, si intromettono in modo discreto. Se ad esempio si devono fare dei lavori, la mafia ha certamente un suo uomo all'interno che gli dice prima cosa e come. La mafia è brava a prevenire imprevisti e prevedere deviazioni. Forse a qualcuno utile sarà. È qualcosa di strisciante, comunque, come strisciano i serpenti. Vive di informazioni che devono essere di prima mano e quindi piazza tanti, ma tanti uomini, professionisti, funzionari zelanti, fedeli, quelli che poi incontri al semaforo con il SUV della Jaguar e tu, il motorino, non puoi fare altro che dire: chi ci da lì? Chi fa un talì, mi schifì? Yes. Without it, we'd be positives, no negatives. Charge. Good science, by definition. Which is why our galaxy is so far beyond.

de Morsa Maggiore. Parola di Tano Seduto. Pure a Bossia non ci sono problemi. Eravamo io, Totuccio Ufango e Micoluccio Busonaro. Allora ci siamo preparati per l'operazione. Noi avevamo già un busto di acido in campagna di Totuccio Ufango, dove c'era un capannone dove ci mettevamo le cose vecchie. In quel periodo c'era sto bidone d'acido. Totuccio si organizza per entrare dentro casa, sto bidone di lamiera di 200 litri. Delle coperte, degli stracci sotto per ovattarlo, per non fargli fare rumore. Io mi metto fuori e Ufango inizia a tagliare il coperchio. Micaluccio mi disse che a sua volta ci avessi Pigino Barbieri di fare scrivere una lettera al piccolo Andreuccio. Ho preso il bambino, l'ho portato dentro e gli ho detto di scrivere al solito quello che voleva scrivere per convincerlo. Il bambino si prende il foglio e inizia a scrivere. Totuccio e Micaluccio portano il bidone di acido piano piano per non fare rumore, per non fare spaventare il bambino. Totuccio prende la corda per metterla attorno al bambino. Io e Micaluccio lo prendiamo per le spalle e Totuccio tira la corda. Lo mettiamo per terra e abbiamo aspettato che... Alla fine ho visto pure due lacrime che sono uscite. Abbiamo spogliato il bambino, l'abbiamo messo dentro il bidone. La mattina abbiamo svuotato il tutto. La stanza poi l'abbiamo lavata, l'abbiamo sistemata, abbiamo tolto tutte le tracce, quelle che potevano esserci, le abbiamo tolte. E poi ci siamo, chi ha strangolato il bambino è stata la corda. Ma noi l'abbiamo bruciata e l'abbiamo sparsa nel terreno e poi l'abbiamo pure arata. Quindi può stare tranquillo, Don Peppino, buonasera, i miei ossequi, buonasera. la sinistra. Ma per me è qualche macchiana, tanto sono tutto quei nudi. Poi sono macchiana controllore che sono senza biglietto. Davvero stiamo facendo? Vi state rendendo conto di quello che state trasmettendo? Qualche ragazzo mi ha chiamato, ha detto che non gli piace per niente il contenuto della trasmissione. E anche se lì c'è DJ testa di cavallo, che lo sa benissimo come vanno queste cose, io vi consiglio di interrompere immediatamente la trasmissione. Eclettismi spaziali tropicali. Lo sapevo, ma i picciotti che si ascoltano Radio Forte, ma comunque cane, andiamo a mangiare un piatto di cavalucci. Buonasera a tutti.